Siamo al telefono con Claudia Tarolo. Buongiorno Claudia, benvenuta ai microfoni. Buongiorno. Siamo qui per parlare insieme della casa editrice per cui lavori, con cui collabori, Marcos y Marcos. Volevo chiedere quali sono le novità che possiamo trovare nel vostro catalogo? Allora, il prossimo libro che esce è il romanzo di un'autrice che è molto importante per la Marcos y Marcos, cioè Miriam Tace, che è un'importantissima autrice canadese che ha pubblicato con noi tutti i suoi romanzi, questo che si intitola Swindle ed esce il 20 gennaio, quindi proprio tra una settimana esatta. E Miriam ha una storia particolare perché lei è nata in una comunità mennonita, cioè una comunità molto integralista, un po' come gli Amish, e lei è scappata appena potuto. E purtroppo però questa, diciamo, la situazione in cui sono cresciuti, così molto repressiva, molto intollerante, ha fatto sì che sia il padre che la sorella abbiano sofferto molto. E al punto da entrambi togliersi la vita, insomma, quindi Miriam in due momenti della sua vita ha vissuto questi dolori giganteschi e che ha rielaborato in due romanzi molto importanti. Il primo si intitola I miei piccoli dispiaceri, che è uscito diversi anni fa e che ha avuto un successo grandissimo in tutto il mondo e anche da noi. E l'altro è questo, che invece è Swing Low, che è dedicato al padre. La cosa importante da dire è che nonostante il tema sia apparentemente un tema non allegro, in realtà la capacità di Miriam è quello di non parlare tanto del dolore o del buio che può portare a queste decisioni estreme, ma al contrario, a tutto quello che ti fa scegliere di vivere, di essere felice e tutto quello che di bello c'è anche stato nella vita di queste persone prima che prevalesse questa, diciamo, questa parte più oscura. Quindi Swing Low è in realtà un libro felicissimo perché parla di rigenerazione, cioè di come guardando attraverso la vita di un altro che però ti è stato così vicino, come può essere tuo padre, tu puoi trovare le ragioni belle, insomma, del suo stare al mondo e anche le tue. Un'altra particolarità della vostra casa editrice è che realizzate anche degli audiolibri, che realizzate proprio direttamente voi, anche in modalità differenti. Sì, infatti noi crediamo molto nella forza della voce come approccio emozionale al testo, no? È chiaro che il testo ha una lettura silenziosa, che è quella tradizionale, che lascia così vagare la fantasia di ciascuno e anche proprio il modo, no, in cui si percepiscono le parole, però a volte anche il fatto di lasciarsi cullare, proprio anche in questo periodo che siamo sempre davanti agli schermi, lasciarsi cullare da una voce che ti racconta una storia è un'altra esperienza molto molto piacevole e addirittura proprio fisicamente rinfrancante. Quindi noi da tanti anni produciamo audiolibri e ora stiamo un po' intensificando e infatti anche nel catalogo di Miriam Tales c'è un audiolibro molto bello, appunto Un complicato atto d'amore, che è stato il suo primo romanzo che l'ha resa famosa in tutto il mondo, ed è letto da Linda Caridi, che è questa bravissima attrice italiana, sempre più, non più emergente, ma già emersa, già diventata molto brava. Ultima domanda che volevo fare è un'altra particolarità, perché come casa editrice realizzate anche dei corsi di varie tipologie. Sì, noi questo lo facciamo da 20 anni, posso dire che siamo stati i primi che hanno iniziato a fare corsi di editoria, nel senso siamo partiti proprio con un corso base su che cosa fa una casa editrice, come si fa un libro e adesso anche un po' grazie, diciamo così, alla pandemia che ha fatto sviluppare tutta la parte online dei corsi, per cui ora partecipano persone addirittura da tutto il mondo. Abbiamo approfondito tutti i vari settori, quindi ci sono corsi di editing, corsi di comunicazione, corsi commerciali, corsi di diritto d'autore e anche corsi un po' legati, no, a tutto quello che è il mondo del libro, come si gestisce un account Instagram, come si fa un podcast. Quindi se si va sul nostro sito si vede che Marcos Academy, così abbiamo chiamato tutto questo insieme di attività, offre veramente tantissimi corsi che possono interessare sia professionisti sia a lettori curiosi, sia persone magari che fanno delle cose che non sono proprio sul libro, ma che possono essere tangenziali. La ringrazio Claudio per averci raccontato meglio che cos'è la casa editrice Marcos & Marcos e le vostre prossime uscite in catalogo. Grazie. Grazie mille a voi.